Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Si parla sempre più spesso di come la promessa di un mondo di informazione libera grazie alla rete si stia trasformando in una specie di brutto sogno dove è soprattutto la disinformazione a risultare vincente. Tuttavia, la speranza, per ora abbastanza disattesa, è che la rete sia in grado al suo interno di sviluppare algoritmi e metodologie che fungano, per così dire, da anticorpi alla diffusione di notizie false, bullismo in rete e altre amenità simili. È quello che per esempio si chiede di fare ai colossi del web. E questa sera vedremo un esempio concreto di come possa essere affrontato un tema molto vicino a quelli che ho appena citato, cioè il tema delle inserzioni false che punteggiano portali quali TripAdvisor piuttosto che Booking.com e altri portali simili. Per parlarne andiamo al CNR di Pisa, che insieme a una società pubblico-privata di ricerca che si chiama Lucense e all'IMT Scuola Alti Studi di Lucca ha dato vita al progetto Review Land, che proprio sulle inserzioni turistiche relative alla provincia di Lucca si è esercitato nel mettere a punto, diciamo, degli algoritmi, adesso spiegheremo un po' meglio, chiamiamoli antifrode per il momento. Ne parliamo con Marinella Petrocchi, ricercatrice dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa e coordinatrice del progetto. Buonasera Petrocchi. Buonasera. Allora, intanto partiamo da qui. Che cosa avete analizzato e con quale obiettivo finale? Abbiamo analizzato più di 200.000 recensioni presenti sul sito TripAdvisor riguardanti hotel, ristoranti e luoghi di interesse nella città di Lucca e nella provincia di Lucca. Lo scopo delle nostre analisi è quello di arrivare a fornire un sistema di raccomandazione a grana molto più fine di quello che possono essere trovati attualmente in rete e che diano all'utente finale recensioni scremate, più in linea rispetto ai suoi interessi, gusti e caratteristiche, e soprattutto scremate, mitigate dalla presenza di possibili recensioni fasulle. Tutto questo realizzando un sistema a punti che pesa più o meno determinate caratteristiche del recensore e della recensione. Chiarissimo. Quindi voi non è che dite questa è vera, questa è falsa, ma grazie a un certo numero di parametri, adesso faremo qualche esempio, dite questa è più verosimile, questa è meno verosimile, per così dire, esatto. Date un punteggio. Benissimo. Veniamo alla metodologia, no? Che ha due pilastri. Sì, la metodologia si basa sulla su provare a garantire due aspetti molto importanti di una recensione online, che sono la soggettività della recensione e la sua veridicità. Perfetto, partiamo dalla prima, che è quella che avete già anche messo a punto, no? Avete messo a punto questo sistema per valutare la soggettività della recensione. Che cos'è? Cosa vuol dire? Allora, la soggettività di una recensione. La recensione è scritta da un essere umano e un essere umano è diverso da un altro essere umano. Faccio un esempio. Supponiamo che io sia una ragazza che ha appena passato l'esame di maturità e che si fa un bel viaggio in giro per l'Europa. Tutta contenta. Tutta contenta. Il fatto che un volo di una particolare compagnia aerea sia in ritardo mezz'ora, un'ora, cinque ore, probabilmente non avrà su di me un effetto letale, certo, nel giudicare quella compagnia aerea. La stessa cosa non si può dire per una donna d'affari che deve arrivare a Bruxelles per un'importante riunione di lavoro, ecco. Quindi il giudizio sul servizio offerto sarà molto diverso, perché appunto proviene da persone con mood molto diversi. Con mood molto, e anche esperienze diverse. Magari uno è la prima volta che vola, l'altro vola tutti i giorni, ha una, come dire, attesa diversa rispetto al servizio. Addirittura, se ho capito bene, in qualche modo, valutando poi lo storico, no, di queste persone, che è uno degli elementi che voi considerate, cioè storicamente come si è comportata questa persona, per esempio ci saranno i pessimisti e gli ottimisti, per capirsi. Certamente, un'analisi proprio rivolta allo storico, al pregresso di ogni singolo recensore, esatto. Quindi anche il suo atteggiamento, la sua attitudine nel recensire il nuovo prodotto dovrà essere pesato opportunamente in particolare relativamente alle sue caratteristiche. E allora adesso vediamo invece al secondo pilastro, che è quello su cui state lavorando in questo momento, tra l'altro in collaborazione, vedo, con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il laboratorio di cyber security, cioè analizzare la veridicità. Qui come funziona? Allora, le faccio una breve premessa. La recensione ha un insieme di informazioni associate, quali ad esempio un testo, quali ad esempio uno score numerico, un punteggio magari da 1 a 10, che valuta il gradimento del recensore, quali la data di visita e la data di recensione. Ci sono anche una serie di informazioni relative al recensore che recensisce quel posto, quel luogo di interesse, quel ristorante e così via. Quali ad esempio il suo luogo di origine, la sua età, il suo genere, il suo nome. Ora, noi stiamo mettendo a punto un sistema, proprio un vero e proprio sistema a punti che valuta diversi aspetti, valuta tutte le possibili informazioni che sono reperibili online relativamente a una recensione e al suo recensore. Le faccio un esempio: valutiamo la presenza di immagini in una recensione, valutiamo la somiglianza di queste immagini con le altre immagini postate da altri recensori relativamente allo stesso esercizio. Valutiamo lo stile in cui una recensione è scritta e cerchiamo di mappare tutte queste informazioni in un'unica funzione matematica riassuntiva che tende a rinormalizzare lo score attuale di una recensione in uno score in cui l'eventuale presenza di recensioni false viene notevolmente mitigata. Quindi Petrocchi, in qualche modo diciamo che voi analizzate la stessa inserzione da molte prospettive diverse. Se queste producono un quadro coerente, no? Per esempio l'età dichiarata corrisponde con lo stile con cui uno scrive l'inserzione, è più probabile che quell'inserzione sia affidabile, sia rilevante e quindi avrà un punteggio più alto. Esattamente, è un po' così. Ha colto esattamente nel segno, sì. Cosa mi puoi dire sull'estendibilità di questa metodologia, che chiaramente è estendibile, come dire, almeno agli ambiti circostanti? Sì, chiaramente è estendibile. Geograficamente non c'è dubbio. Ho fatto l'esempio di Lucca, ma questa metodologia può essere estesa chiaramente a qualsiasi città del mondo per cui è presente una recensione online, ma non solo. Anche a tutte le altre piattaforme su cui le persone possono scrivere pareri e opinioni relativamente a prodotti e servizi. Senta, chiudiamo con una domanda un po' più generale. Ecco, rispetto a questo problema, cioè quello di filtrare, di riuscire ad avere delle informazioni il più possibile corretta, ecco, fino a che punto lei, che si occupa direttamente di questo tema, pensa che il problema possa essere affrontato per via tecnologica e quanto invece, insomma, ci dovremo noi attrezzare culturalmente per convivere in un mondo dove ci sono dosi significative, insomma, di disinformazione? Allora, sicuramente domanda da un miliardo di dollari. Sicuramente ci vorrà un apporto da ambedue i settori, ovvero la tecnologia e la mente umana. Perché le faccio un esempio: adesso dei ricercatori americani hanno appena pubblicato un lavoro in cui si dimostra come una macchina può generare recensioni che sono assolutamente indistinguibili dalle recensioni che si trovano attualmente online. Quindi la tecnologia va avanti, certo. I modi di evadere la tecnologia vanno anche avanti loro. E quindi una quantità di sale in zucca, ecco, ci vuole. Come non essere d'accordo con lei? Grazie Marinella Petrocchi. Grazie a lei e agli ascoltatori, grazie. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento domani. A voi tutti, buona serata.